poi gira su commissione mentre sono in studio e giochi a fare il gangsta. Io matita dell'underground che spara zero e sembra che questa merda non venga presa sul serio, rallenta. Lo sfondo è nero ma non è un blackout, è black music, la cerniera dei cervelli chiusi. Accompagni i writer sulla linea ferroviaria. Quest'arte non è fatta per chi se la canta, a chi tira pacchi più di un vecchio supermarket. Giochi con la cultura, non superi gli auditel. I player han capito male, quanto fiato vuoi ancora sprecare? Non ci parlate di stile, se poi ci discriminate per il modo di vestire. Con quella gente non abbiamo niente da spartire, prendetevi pure la mira, tanto non siete buoni a colpire. Qui non si fa niente di male, killer solo sulla strumentale. Corse per i money, oh mi sono fuori, fanculo a questi autori, non conoscono la story. Chi è il boss che manovra tutti questi attori? Chi è che spegne questo fuoco senza gli estintori? Strade infestate dagli investigatori di un mercato discografico che censura i talenti nuovi. Ladies and gentlemen, it's showtime. Bitches and player, I'm so high. È passato di moda al passato, non me ne frega un cazzo, è diventato il vero slogan del mio stato. Ci sto provando a non prendermi male, ma è improbabile vedermi fare dell'avanza chi spinge la commerciale o chi scambia street flow con un singolo di Usher. Dovresti andare a fare il bucato al posto di raccontare delle teste che bucato. Volevano farci vedere che hanno firmato, volevano parlare di rap e l'hanno insultato. Se stai dentro al pivè, l'invidia non c'è, la fama toglie i decimi alla più calda delle gang. E le scarpe consumate testimoniano che ci va poco per un paio nuove poi ti comprano. Sono fuori da questi contratti, questi giochi, a tenerlo vero siamo in pochi. Nel mio mondo più Jack Daniel nei milkshake, più player meno fake, e non esistono i parade. Sono fuori, fuori, fuori, fuori.